scendi, siediti nella polvere, o vergine figlia di Babilonia. Siediti sulla terra senza trono, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera e delicata. Prendi la mola e macina la farina. Rimuovi il tuo velo, scopri lo strascico, denuda il femore, attraversa i fiumi. La tua nudità sarà scoperta ed apparirà il tuo obbrobrio. Farò vendetta e nessuno intercederà. Il nostro Redentore, il cui nome è Signore degli eserciti, il Santo di Israele, dice: siedi silenziosa ed entra nelle tenebre, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata signora dei regni. Mi sono adirato contro il mio popolo, ho profanato la mia eredità, li ho consegnati in tuo potere, ma tu non hai dimostrato loro pietà. Sugli anziani facesti pesare il tuo giogo enormemente, tu pensavi: sarò per sempre, sarò sovrana in perpetuo. Non hai considerato queste cose, non hai meditato sul loro seguito. Ed ora ascolta questo, o voluttuosa, che riposi sicura, che pensi in cuor tuo: io e nessun altro. Non rimarrò vedova, non conoscerò la mancanza di figli. Queste due cose piomberanno su di te istantaneamente, in un sol giorno. Mancanza di figli e vedovanza verranno a te in piena misura, malgrado l'abbondanza dei tuoi sortilegi e la potenza dei tuoi numerosi scongiuri. Confidavi nella tua malizia e dicevi: nessuno mi vede. La tua sapienza e la tua scienza ti hanno fuorviato. Eppure tu pensavi nel tuo cuore: io e nessun altro. Ti sopraggiungerà la disgrazia che tu non potrai scongiurare. Cadrà su di te la rovina che non potrai evitare. Verrà su di te all'istante la catastrofe che non hai previsto. Rimani con i tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi per i quali ti sei affaticata sin dalla giovinezza. Forse te ne potrai giovare, forse ti renderai terribile. Ti sei stancata per i tuoi molti consiglieri. Si presentino e ti salvino quelli che misurano il cielo, che contemplano le stelle e pronosticano ogni mese ciò che ti accadrà. Ecco, sono diventati come paglia, il fuoco li ha bruciati. Non salveranno le loro persone dal potere della fiamma, ma non sono braci per cuocere il pane, né focolare per sedervisi davanti. Così sono stati per te i tuoi incantatori, con i quali ti sei affaticata sin dalla giovinezza. Ognuno erra per conto suo. Non c'è nessuno che ti salvi.